N.E.O. Neo, non avanguardia. Il mio non un lavoro, ma mi nutro di istinto. L'ho fatto per il denaro, per questo sono distinto. Hai letto bene il mio nome, è già lì che l'ho scritto. Sono tu e le vie al centro del mio tracito. Credo forte nell'arte e chi è il performista. Sai che scritto la Moloch sopra il pubblico in vista. Il cuore mio è un manifesto, più di mille colori. Voti a destra o a sinistra, entrambe le direzioni. Se qui c'è un altro papa a dare le direzioni, ha dato un'altra trama alle mie condizioni. Cambiare per diventare, non ti dico il più grande, più forte. Quello matto scapocciato che sfida la morte. Io che sono l'eletto di questo manifesto. Sono tutte le arti e questo cazzo di pezzo. L'ho scritto per far capire questa nuova cultura. Di chi semina e trova una strada futura. Living me as someone else, when I'm looking for someone else. And you don't know what I tell you. Non avanguardia che spacca le palle. Living me as someone else, when I'm looking for someone else. And you don't know what I tell you. Non avanguardia che spacca le palle. Non avanguardia, sai neanche un saluto in manichino. Tipo esco da Neo, se decide Dio. Ho giurato di guardare poi dritto al futuro. La lotta fallimentare, sai la segno sul muro. Sul capo credi di schiacciare ma sbagli sicuro. E la CP prendo in mano la spada e lo scudo. Proteggo ciò che sono ma ricordo il mio passato. Non ha né cura né luogo né il timer del mio passato. Usando tutta la forza che ci sta in questo testo. La mia arte ha mangiato solo pane e cemento. E tutti gli anni che ho passato poi sputarci dentro. Mi devo far perdonare, adesso scrivo di getto. Il creatore elabora, solo l'elaborato. E le mie opere fuori le vedo tocco con mano. Questa è non avanguardia, il capo volge lo stato. Io scendo in battaglia con le parole di Gladio. Believe in me as someone else, when I'm looking for someone else. And you don't know what I tell you. Non avanguardia che spacca le palle. Believe in me as someone else, when I'm looking for someone else. And you don't know what I tell you. Non avanguardia che spacca le palle. Non avanguardia che spacca le palle. Believe in me as someone. Trying to tell him my mind is so easy. The view my body changing, the dream my body waiting. Send my mind to find the truth that God has saved me. And the way to this moment for years, life and age. You say the king of fear, you raised it for dark and age. Don't trust in me, you build up for me. Someone else is a thinking, oh. You believe in me as someone else, when I'm looking for someone else. And you don't know what I tell you. Non avanguardia che spacca le palle. You believe in me as someone else, when I'm looking for someone else. And you don't know what I tell you. Non avanguardia che spacca le palle.